cos'hai? Cardanian sulla traccia, sulla traccia. Ho soldi in tasca, inchiostro su tutte le braccia. Le mie tracce nell'iPhone, ma è la tua ragazza. A metà scena italiana piegata a 90. Che cos'hai? Cardanian sulla traccia, sulla traccia. Ho soldi in tasca, inchiostro su tutte le braccia. Le mie tracce nell'iPhone, ma è la tua ragazza. Sulla traccia, cosa? Lei dice che vuole i miei bambini in faccia. Tony compra un altro chilo, porta sabbia alla spiaggia. Vegana la porto da Mac, baby, prendi un'insalata. Sto fumando insalata, 2G dentro una canna. Soldi nelle mie tasche, oro al posto di ogni caria. Prendo droghe come una cavia. Spingo forte, ti faccio dire aia. DPC siamo l'Italia, DPC siamo la mafia. Ops, l'ho già detto, concentrato a fare i soldi, scusa, a volte mi ripeto. Ma il tuo rapper preferito non può guardarsi allo specchio. Siamo alieni, tu fai l'uomo, tira fuori quel petto. Tosse, questa kush mi brucia il petto. Siete solo bruciati, io ho il fuoco nel cervello. Nessuno mi conosce, rido ad ogni commento. Tutti odiano la dark, io odio solo stare fermo. Che cos'hai? Cardanian sulla traccia, sulla traccia. Ho soldi in tasca, inchiostro su tutte le braccia. Le mie tracce nell'iPhone, ma è la tua ragazza. A metà scena italiana piegata a 90. Che cos'hai? Cardanian sulla traccia, sulla traccia. Ho soldi in tasca, inchiostro su tutte le braccia. Le mie tracce.